Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Quarta puntata. Roby e io ci squadravamo, lui languidamente appoggiato alla Studebaker con i calzoni lunghi e io fin troppo consapevole di quanto fossero tozze le mie gambe nei calzoncini corti. Il Saheb sbucò fuori dall'imponente vettura blu e salutò la nonna con un sorriso, curvando il busto in avanti in una sorta di inchino abbreviato. La nonna gli fece un rapido cenno del capo, interrompendo la conversazione con Maya Debi, giusto il tempo di sollevarsi sulle punte dei piedi e annusarlo in faccia con aria distratta. Lui fece finta di niente, ma più tardi mio padre rimproverò la nonna dicendole che non avrebbe dovuto annusarlo a quel modo davanti a tutti. Pensava forse che non si fosse reso conto che lei cercava di capire se avesse bevuto. Se n'era accorto certamente, si era accigliato di fronte a quella sua messa in scena di fiutare stando in punta di piedi. «Non mi meraviglio», rispose la nonna con sarcasmo. «Infatti aveva bevuto. Il suo alito puzzava come trementina alle 9 del mattino. Io però non me ne sono accorta», disse mia madre. Quel giorno il Saheb la conquistò. Mia madre aveva visto recentemente su un giornale una fotografia che lo ritraeva in piedi alle spalle del ministro degli esteri seduto al tavolo di un negoziato e si era convinta che l'uomo gentile alla mano che le ricordava si trovasse ora in una posizione di potere e autorità tali da doversi preoccupare permanentemente di problemi di Stato. Poiché giudicava se stessa del tutto ignorante in proposito, aveva coltivato un segreto timore all'idea di parlare con lui. E certo, dopo che si era inchinata ai suoi piedi, l'aveva guardata schiarendosi la voce come un uomo di Stato, esattamente ciò che lei temeva. Invece, quando già cominciava a tremare, pensando di dover esprimere la propria opinione su qualche complicato argomento di politica internazionale, lui le aveva posato una mano sulla schiena e con il suo bell'accento di Calcutta unito all'odore del tabacco da pipa e del whisky aveva detto: «Spero che non ti dispiace andare al mercato a comprare le uova». Dopo che lei ebbe risposto meglio che poteva, lui continuò chiedendo se i prezzi della verdura erano cresciuti dall'ultima volta che era stato a Calcutta e se era ancora così difficile procurarsi il cherosene. Mia madre fu colpita dal fatto che un uomo così importante e distinto si occupasse di simili inezie, ma anche piuttosto confusa. Infatti, benché le domande le fossero state rivolte con un atteggiamento di indubbio interesse, erano venute una dopo l'altra così rapidamente da dimostrare una certa pratica. Lei, però, non poteva immaginare nessuna circostanza in cui un uomo come quello potesse far pratica di simili cose. Non riusciva a credere che i ministri con i quali riteneva che trascorresse il suo tempo si interessassero davvero alle chiacchiere sul prezzo delle uova e la disponibilità di cherosene. Mio padre, dal canto suo, rimase perplesso di fronte alla conversazione del Saheb con mia madre. La sua ammirazione per il Saheb sfiorava l'adulazione, in parte perché era il nostro solo parente importante, ma soprattutto perché il genere di eleganza e di prestigio a cui i padroni dell'industria della gomma aspiravano inutilmente era in lui del tutto naturale e in quell'immagine di raffinata distinzione non c'era posto per il suo imprevisto interesse per uova, verdura e altre questioni domestiche. Thank you. non venne risolto se non qualche anno più tardi, quando mio padre, durante un viaggio di lavoro in Africa, trascorse qualche giorno ospite di Maya Debi e del Shaheb a Conakry. Durante un pranzo all'ambasciata, lo udì impegnato in analoghe conversazioni con le mogli di due sottosegretari, in cui si limitava a sostituire le uova con il montone. «Sono queste le cose di cui parlare con la signora di un sottosegretario?» spiegò a mio padre mentre tornavano a casa. «Sono nuove del mestiere e questi discorsi servono a tirar su il morale. Apprezzano che Sua Eccellenza partecipi alle loro piccole difficoltà. Dunque, vedi», spiegò mio padre e mia madre al ritorno dall'Africa, «il giorno in cui andammo da loro a Rai Bajar mi aveva equiparato a un sottosegretario». Mentre mia madre parlava con il Shaheb, io ero fuori di me dalla preoccupazione. Mi aggrappavo al suo sari urlando, chiedendo dove fosse Ayla. Non aveva promesso che sarebbe venuta anche lei? Mia madre non sapeva che cosa rispondere. Allora corsi dal padre di Ayla e gli chiesi perché non fosse ancora arrivata o forse non sarebbe venuta. Mi prese per una spalla, scosse la testa e disse che purtroppo, no, gli dispiaceva, ma l'aveva lasciata a Londra, non sarebbe venuta. Avevo notato l'occhiatina d'intesa che aveva scambiato con mio padre, ma ero ugualmente ammutolito per la delusione. Con gente della loro età è naturale aspettarsi il peggio. Anche Maya Debi lo aveva sentito e, vedendo che stavo per scoppiare in lacrime, mi prese da parte e mi disse di non preoccuparmi. Avrei visto Ayla nel giro di un minuto. Era nell'altra auto con sua madre e Tridib e naturalmente Lizimisi e Nityananda, il cuoco. Infatti, eccola la nuova ambassador grigia che il Shaheb aveva comprato con suo figlio dall'altra parte dello spartitraffico, e Ayla che si sporgeva dal finestrino con i lunghi capelli che svolazzavano al vento. Mi nascosi nel sari della nonna, improvvisamente atterrito all'idea di rivederla. «Ma che cosa fai, stupidino?» disse la nonna. «Eccola, ecco Ayla, non la stavi aspettando?» Tridib bloccò teatralmente la vettura e cominciarono a scendere lentamente. Qui in Victoria, così grassa che restammo a bocca aperta. Tridib, che mi raggiunse con il nostro segreto saluto inca prima di voltare l'angolo alla ricerca di sigarette. Lizimisi, che era rimasta nella loro casa di Calcutta mentre loro erano a Londra. Nityananda, il cuoco, che stava con il Shaheb e Maya Debi da 15 anni e che ora si mise sull'attenti, gli occhi fissi a una certa distanza, memore di ciò che gli avevano insegnato nell'esercito. Ayla invece restava in macchina a guardare dal finestrino la statua al centro di Gole Park coperta di escrementi di uccelli. All'improvviso tutti insieme ci ricordammo di lei. «Non vedo Ayla», disse Maya Debi. «Probabilmente si è addormentata da qualche parte», disse mia nonna. «Probabilmente fa il broncio», disse Roby. «Deve essere grande ora», disse mia madre. «Non abbastanza grande», disse Queen Victoria. «Non mangia nulla la mia piccolina». «Abbastanza grande per un orologio automatico», disse suo padre. «Le ho regalato un omega d'oro per il suo compleanno». «Ma dov'è?» chiese Maya Debi. «Oh mio Dio, Lizimisi!» gridò Queen Victoria. «Hai la mem subito qui, trovare, dove essere». Lizimisi si avvicinò alla macchina e noi udimmo il rimprovero della sua voce sottile. Dopo un po', Ayla saltò fuori molto lentamente e si appoggiò per un momento alla portiera dell'auto, strofinandosi gli occhi con i polsi. Quando alzò lo sguardo, i suoi occhi incontrarono i miei. Restammo a guardarci in mezzo alla nostra famiglia riunita. Indossava vestiti come non ne avevo mai visti prima. Vestiti inglesi, un camicione bianco sul quale era applicata una giraffa i cui zoccoli sembravano poggiare sull'orlo mentre il collo si allungava quasi a sfiorarle il mento. «Non poteva essere quello!» gridò forte Ayla e la sua voce echeggiò nelle vetrine buie dei negozi di Long Acre mentre camminavamo verso le luci di Soho. Rise, poi, riflettendo con aria un po' alticcia, disse di no. Non poteva essere quello, lo aveva comprato molto tempo dopo. E Robby, dandole dei colpetti sulla schiena, mi ricordò che Ayla aveva posseduto interi bauli di abiti. Quello non era che uno tra mille. Ma io mi ricordo. Riesco ancora a vederglielo indosso. Mi sembra di sentire il rumore del tessuto inamidato da Lizzie Missy e di vedere le grinze lasciate dal ferro. Sento la trama trasparente della stoffa e l'odore del talco per bambini con cui Lizzie Missy aveva cosparso Ayla. Posso vedere persino la traccia di polvere bianca rimasta sul suo collo e i due rivoli di sudore che vi si aprivano in mezzo a una strada. «Perché la fissi in quel modo?» chiese mia madre. «Vai e dille qualcosa!» A quelle parole arretrai ancora di più. Partimmo subito. Io sedevo davanti con Niti Ananda e Tridib, mentre Ayla, sua madre e Lizzie Missy sonnecchiavano dietro. Ci volle più tempo del solito ad attraversare la città. Le auto non godevano di alcun privilegio. In quel periodo dell'anno le strade sono invase dai festeggiamenti. Nei pressi di Gariat dovemmo farci strada a passo d'uomo con Tridib e Niti Ananda che si sporgeva dai finestrini supplicando i venditori ambulanti di lasciarci passare. Apparve all'improvviso, al di là del parabrezza, una luminosa chiazza gialla in cima a un dolce pendio. Spuntava come una torta da quel pianoro. Raggiungemmo rapidamente l'arco d'ingresso, ai lati del quale si allungavano due file di capanne. Le macchine rallentarono un po' e mentre la nube di polvere che fino a quel momento ci aveva seguiti scendeva ad avvolgerci, dalle capanne sbucarono dei bambini e si misero a correre a fianco delle automobili agitando le braccia e gridando. Ora la casa sembrava sparita dietro la foresta che fiancheggiava la strada fino alla sommità del colle. Gli alberi crescevano così fitti e vicini da nascondere la casa come un sipario. Tridib, con un sorrisetto, mi disse di guardarmi intorno perché sarebbe passato del tempo prima che mi capitasse un'altra occasione di vedere alberi come quelli. Suo nonno aveva deciso di vivere in mezzo a una foresta tropicale e così aveva importato quegli alberi dal Brasile e dal Congo. Appena scendemmo dalle auto, fummo circondati. Ayla sparì in mezzo a un groviglio di persone ansiose di vedere e festeggiare l'unica nipotina della famiglia. Lasciò che si affannassero intorno a lei per un po', poi repentinamente si liberò di loro, mi prese per mano e mi trascinò attraverso la terrazza lastricata. «Vieni!» sussurrava con insistenza. «Vieni! Andiamo a nasconderci!» Lanciai un'occhiata alle mie spalle. «Ci seguono!» gridai. «Cosa facciamo? Seguimi!» assimava lei, aggirando veloce il plinto del portico. Zigzagando fra le colonne, riparammo in una vasta sala coperta di muffe. Incespicando, accecati dall'oscurità, sbattemmo l'uno contro l'altra. Infine inciampammo in una rampa di scale di freddo marmo. Stringendo gli occhi, cercai di vedere dove conducesse, ma scorgevo solo pochi gradini, oltre i quali la scala si immergeva nell'oscurità. Sentivo i custodi e i bambini che correvano nel cortile gridando. È troppo buio lassù, mormorai rivolto a Ayla. Dove ci nasconderemo? Ci hanno quasi raggiunti. Vedrai, mi disse, nessuno penserà di cercarci qui. Per un po' non riuscii a vedere altro che un pallido luccichio verdino che filtrava attraverso la finestra, così in alto lungo la parete da sembrare un lucernario. Rabbrividii. Non ero mai stato sottoterra prima di allora, e per quanto ne sapevo, solo l'aldilà si trovava sottoterra. Mi guardai intorno e quella stanza cavernosa sembrò tutto un tratto piena di figure indistinte, di un verde cupo in quella strana luce acquatica, simili alle rocce che si profilavano sul fondo della grotta di una murena in una fotografia mostratami una volta da Tritip. Non mi piace questo posto, sussurrai a Ayla. Non voglio restare qui. Vigliacco, rispose lei, e tu saresti un maschio. Guarda me, io non ho paura. Sono solo dei vecchi mobili coperti con dei lenzuoli, niente di più. Ma cosa possiamo fare qui? È così buio. Io so cosa possiamo fare, disse lei battendo le mani. Possiamo fare un gioco. Un gioco, gridai, sbirciando le ombre grigio-verdi che sbucavano dall'oscurità. Ma che razza di gioco possiamo fare in un posto simile? Ti faccio vedere. È un bel gioco. A molti ragazzi piace. Ma non c'è spazio qui dentro, protestai, e non vedo quasi niente. Si alzò in piedi ed esclamò: so dove possiamo giocare. Spero solo che sia ancora laggiù. La seguì mentre avanzava tra le figure minacciose avvolte nei loro mantelli, inciampando nel buio, sollevando piccole bufere di polvere. Mi condusse in fondo alla stanza, dove il buio era così fitto che a stento indovinavo dove si trovasse lei. Sì, gridò trionfante, indicando una montagna coperta da un lenzuolo. È ancora qui! Aiutami a togliere il lenzuolo, forza! Ne afferrai un capo, lei un altro e tirammo. Ma invece di sollevarsi, il lenzuolo sembrò vanificarsi tra le nostre mani e per un momento ogni cosa sparì in un ciclone di polvere. Riesco ancora a vederla mentre prende forma lentamente in mezzo alla nuvola di polvere. Era una tavola, la più grande che avessi mai visto. Sembrava estendersi a perdita d'occhio. Bene, disse Ayla, andiamo là sotto. Là sotto, ero inorridito. Afferrai il suo grembiolino e tirandolo le chiesi che razza di gioco si potesse mai fare sotto quella tavola. Vieni e vedrai, mi rispose. Si era già messa a carponi e si faceva strada nella polvere. Vieni, ti farò vedere. È il gioco che faccio con Nick. Nick? Dissi vigile tutto a un tratto. Chi è Nick? Non sai chi è Nick? Disse lei e girandosi indietro verso di me continuò. Nick è il figlio di Mrs. Price, il fratello di May. Viviamo in casa loro a Londra. Andiamo a scuola insieme la mattina e torniamo a casa insieme nel pomeriggio. Poi, ogni sera, andiamo a giocare insieme giù, in cantina. Mi prese per mano e cercò di tirarmi giù. Dai, ti farò vedere, si chiama gioco delle case. No, risposi scuotendo la testa, confuso dalle domande che sentivo affiorare dentro di me. Questo Nick, sentii la mia voce che chiedeva, quanto è grande? Oh, è grande, disse Ayla, appollaiandosi sul poggiapiedi. È molto grande, molto più grande di te e anche più robusto. Ha 12 anni, 3 più di noi. Com'è? Chiesi a quel punto. Assunse un'aria assorta e pensierosa. Hai capelli gialli, disse dopo un po', che gli cadono sempre sugli occhi. Perché? Disse, non si pettina. Si pettina, ma gli cadono ugualmente sugli occhi. Devono essere lunghi come quelli di una ragazza. No, non sono come quelli di una ragazza. E allora perché sono lunghi? Non sono lunghi, sono solo molto lisci. E quando corre o altro gli cadono sugli occhi. Riesce perfino a toccarli con la lingua certe volte. Sputai sul pavimento disgustato. Restammo a osservare la saliva che si trasformava in una piccola pozza di fango schiumoso. Che schifo, dissi. Mangiarsi i capelli. Sei geloso, disse Ayla con una smorfia, perché i tuoi capelli sono così corti. Nick ha un'aria dolce quando i capelli gli cadono sugli occhi, lo dicono tutti. Da quel giorno, Nick Price, che non avevo mai visto e che per quanto ne sapevo non avrei mai incontrato, fu una presenza spettrale al mio fianco nello specchio. Cresceva con me, ma era sempre un po' più alto e più bello, e c'era in lui qualcosa di più desiderabile, non sapevo che cosa, ma era così per Ayla, perciò doveva essere vero. Guardavo nello specchio ed eccolo, ogni volta più solido, sempre più alto di me di tutta la testa, con i peli sulle braccia, sul petto e sul pube, mentre i miei erano pietosamente glabri. Tuttavia, se cercavo di guardare in faccia quel fantasma, di vederne il naso, i denti, le orecchie, non c'era nulla. Non aveva lineamenti, non aveva forma. Chiudevo gli occhi e cercavo di vedere il suo viso, ma tutto ciò che riuscivo a vedere era una massa di capelli gialli che ricadevano su un paio di luminosi occhi blu. Di ciò che faceva o diceva o pensava nei 3 anni che trascorsero fra il momento in cui Ayla mi parlò di lui per la prima volta e il giorno in cui condussi May nella stanza sotterranea, io non seppi assolutamente nulla. La voce di Elia Shilton per la puntata numero 4 delle Linee d'ombra di Amitav Ghosh, traduzione di Anna Nadotti per Neri Pozza. Questo è il libro scelto per voi dalla redazione di Ad Alta Voce, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Potete riascoltare come sempre le puntate precedenti sul nuovo sito raiplayradio.it. E alle 16:27 minuti esatti concludiamo il nostro ascolto dedicato, su suggerimento della redazione di Musica 3, a Coltrane Plays the Blues, 1962, questo l'album che abbiamo scelto per voi, chiaramente di John Coltrane. John Coltrane che nell'anno precedente, 1961, scrisse, incise e pubblicò My Favorite Things con gli Atlantic Studios. My Favorite Things, canzone anche distintiva di Fahrenheit, e con il materiale assemblato proprio durante quelle sessioni, l'anno dopo, nel 1962, uscì proprio per Atlantic Records questo Coltrane Plays the Blues, mentre il musicista e sassofonista aveva lasciato l'etichetta per la Impulse, che segnò tutto il periodo successivo. E ascoltiamo ora il brano che si intitola Mr. Knight.